Dobbiamo assolutamente riportare tutto quello che è fuori, portarlo qui, e da parte dei politici dovrebbero incentivare le aziende, magari defiscalizzandole, perché non è giusto che io debba pagare le stesse tasse che paga un'altra persona che va fuori all'estero, o perlomeno con le dogane, regolamentarle con le dogane. Se vai fuori a produrre, bisogna che tu, quando rientri con i prodotti fatti interamente all'estero, vengano tassati molto di più. Per